elefante, sette primiera, si stan giocando a carte la frontiera. L'ho rubata che stavo dormendo ed ora è a pezzi e la stanno vendendo. Saldi, sconti di fine stagione, c'è chi la vuole per ogni occasione. Pezzi di frontiera da mettere in giardino per fare la guerra col mio vicino. Rego, sciura, taleggio e groviera, e poi schela il sovel donne frontiera. Ma perché mi sposta la frontiera se sapendo ele farda scià adesso che la frontiera se proprio passa. Ma perché adesso che la frontiera tra te e me. Ma perché adesso che un mur in mezzo ai me. Contrabbandieri non riescono a capire da che parte entrare e da che parte uscire. Ecco il signore che ne vuole un pezzettone per chiudere dentro tutta la regione. Vivremo tutti in zone separate come tante coppie divorziate. Occhio, qui si mette male, ci vuole il passaporto per scendere le scale. Questo qui è il mio inquilino, ha sulla porta il muro di Berlino.